Non basterà una vita intera a farmi risvegliare dal sogno in cui sono finito e tu hai finito me. Lascerò cadere al suolo le mie ostinazioni, che al cuor non si comanda ed io non ho più regole. Non ho più regole. Mediterraneo, ma di te no, no. Il mare che volevo, la terra che cercavo, il sud del cuore su cui appoggiare la mano. Mediterraneo, ma di te no, no. Non ho mai avuto nulla. Ma ti tengo bene a mente. Non conto più le notti in cui sono tornato a ieri, a chiedermi chi eri, a chiedermi che ne sarà di me, che non l'ho fatto in tempo a rimanere al passo. In mezzo a questo chiasso non ti ho ritrovata più. Mediterraneo, ma di te no, no. Il mare che volevo, la terra che cercavo, il sud del cuore su cui poggiare. Indietro, indietro non ti vedo.